Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alla prima puntata delle feste di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Al via con oggi la nostra breve serie natalizia che abbraccerà San Silvestro il 7 gennaio e nel corso della quale ripercorreremo alcune delle trasmissioni più interessanti andate in onda negli ultimi mesi. Ne approfittiamo anche per farvi i nostri migliori auguri di buon anno. Mancano poco più di 10 ore al 2017 e vi immaginiamo già immersi nei preparativi. Quale migliore occasione allora per prendersi una bella pausa, sedersi, rilassarsi e ascoltare storie di eccezione? Vi ricordiamo anche che, sebbene la trasmissione sia in vacanza, restano attivi tutti i nostri canali social. Su Facebook ci trovate come Giovani Talenti Radio 24, su LinkedIn come Fuga dei Talenti. Giovani Talenti. Non finisce qui. Oggi vi annunciamo il primo grande restyling di Giovani Talenti. A partire da sabato 14 gennaio, con la ripresa della stagione, importanti novità attendono i nostri ascoltatori. La prima riguarda le storie che vi racconteremo. Non parleremo più solo ed esclusivamente di giovani espatriati, che resteranno comunque, non vi preoccupate, il cuore del nostro programma, ma vi racconteremo anche più approfonditamente gli italiani che tornano nella penisola e i giovani che emigrano per studiare con programmi formativi ad hoc. E se questo non vi basta, beh, sentite quest'altra novità. Ogni due settimane appuntamento dedicato con l'Agenzia per l'Impiego Europea Eures, che farà il punto sulle opportunità di lavoro nel vecchio continente. Questo per aiutarvi in modo ancora più concreto a cogliere opportunità oltre confine. E infine, come sempre, proseguiranno le nostre puntate speciali e la nostra rubrica mensile sull'Estremo Oriente. Un anno ricco di novità, quello che si apre domani per gli ascoltatori di Giovani Talenti. Non perdiamo però altro tempo, andiamo a riascoltare alcune delle puntate speciali che vi abbiamo proposto quest'anno. La prima in realtà non riguarda giovani espatriati, ma i giovani del futuro. I loro sogni, le loro speranze, la loro visione dell'Italia. Lo abbiamo fatto a luglio con i ragazzi di Radio Immaginaria. Nome: Francesca, Nina, Tommy, Sassa, Luca. Età: 12, 13, 16, 16, 17. Studi: scuola media, liceo, liceo scientifico. Dovrei studiare al liceo. Liceo classico. Cosa farai da grande? L'avvocato. Io non lo so. Sogno di fare l'ingegnere aerospaziale. Comunicazione? Spero giornalista. Dove ti vedi tra 10 anni? A Amsterdam. Forse non in Italia. Centro di controllo, Agenzia Spaziale Europea. Non in Italia. In giro per il mondo a scrivere articoli. E allora, dopo questa bella introduzione in cui vi siete presentati, andiamo subito nel cuore della puntata e chiedo a Sassa di spiegarci cos'è Radio Immaginaria a chi ancora non la conosce. Chi siete, cosa fate e come siete nati? Radio Immaginaria è la prima e unica radio di adolescenti in Europa. Dagli 11 ai 17 anni parliamo in 10 davanti a un microfono e vogliamo dimostrare che anche noi adolescenti abbiamo un'opinione e che la nostra opinione vale. Dove vi troviamo? Ci puoi trovare su Spreaker oppure su Facebook, Instagram, Twitter, siamo un po' su tutti i social. Domanda per tutti da 1 milione di euro: come immaginate il vostro futuro? Partiamo con Francesca. Il mio futuro lo immagino intanto bello e lo immagino con tanti bambini, perché mi piacciono i bambini, con molti figli insomma. Nina? Io spero che la situazione in Italia migliori, altrimenti non in Italia comunque. Tommaso? Il mio sogno è quello di fare un po' tutto, di avere un futuro, non ho un'idea precisa, un futuro molto aperto, conoscere tante persone e di sicuro in ambito scientifico. Sassa? Io spero nel futuro di fare il lavoro che mi piace e quindi seguire la mia passione. Luca? Io spero nell'ambito della comunicazione, se qui in Italia o all'estero non lo so ancora, però l'importante è di fare qualcosa che mi piace. C'è anche il dove lo immaginate il vostro futuro e molti di voi lo vedono all'estero. Perché? Chi è che voleva andare all'estero? Ricordatemelo. Io. Allora ecco, fermi tutti, partiamo da Francesca, perché? Io volevo andare a Amsterdam perché secondo me è un paese molto, diciamo, tranquillo, dove le persone accettano tutti. Poi abbiamo Nina. Io semplicemente perché la situazione qua in Italia non la vedo molto prosperosa per il futuro, e quindi secondo me cercare qualcosa di più pratico all'estero è meglio. E poi io. Sassa? Per noi ragazzi qui non c'è spazio e quindi quasi ci sentiamo obbligati a dover andare all'estero per realizzarci. Tu hai 16 anni e già guardi fuori. Beh, anche Francesca ne ha 12 ed è già proiettata verso l'Olanda. L'Osservatorio Generazione Proteo parla della generazione 17-19 anni come di una generazione che si sente creditrice verso la società, le istituzioni e la politica. Sostiene che in 3 casi su 4 la futura realizzazione professionale fa paura, addirittura più del terrorismo. E non è un caso se chi tra i millennials si intende intraprendere una strada imprenditoriale la costruirebbe all'estero nel 57% dei casi, dopo un percorso universitario nel 60% dei casi. A Sassa e Luca, chiedo quanto siete d'accordo, Sassa. Allora, io sono d'accordo in parte, nel senso che sì, c'è un po' questa opinione di doversi per forza realizzare all'estero, perché ormai ci sono un sacco di adulti che dicono che per noi giovani qui in Italia non c'è spazio e non c'è lavoro, quindi ci sentiamo un po' obbligati a dover per forza uscire da qui per poter diventare qualcuno. Luca? Io, riprendendo la prima parte della domanda, comunque mi sento sì creditore nei confronti della politica, delle istituzioni, perché mi aspetto sempre il meglio da uno Stato che dovrebbe fare il massimo per noi, e di conseguenza quando vedo che in realtà estere, quale adesso mi vengono in mente i paesi anglosassoni, la realizzazione personale è più accompagnata e forse vi è più fiducia nei giovani, mi viene spontaneo pensare che forse ne varrebbe la pena cambiare Stato. Qualcuno di voi ha già fatto esperienza all'estero? Ci risponde Tommaso. Sì, io sono andato una settimana in Inghilterra e è strano perché lì il mondo è completamente diverso, però d'altra parte mi faccio un'idea anche di com'è la mentalità all'estero. Secondo me viaggiare, fare esperienze già da giovani aiuta un sacco. Noi siamo fortunati perché possiamo farlo rispetto ai nostri nonni, però aiuta un sacco perché la mentalità estera è veramente differente da quella ad esempio italiana, e la scuola anche è molto differente. Quindi in termini anche di bagaglio di esperienze ti sei sentito arricchito? Molto arricchito, molto arricchito. I miei parenti abitano a Bolzano, alcuni, e quando vado io trovo che la mentalità sia totalmente differente. Bolzano in Italia, ricordiamolo, sì, Francesca. Però anche vicino al Tirolo. Mi sembra diversissimo da molte altre parti d'Italia. Mi sembra che la gente sia molto, cioè, sia diversa. Altri che hanno fatto esperienza all'estero? Sono andato ad Oxford l'anno scorso, sono andato ad Oxford per un mese a studiare inglese, e comunque la realtà è totalmente diversa dalla nostra, gli atteggiamenti delle persone, e sei costretto ad arrangiarti praticamente da solo, e quindi di conseguenza è un'esperienza assolutamente formativa per me, che consiglio a tutti. Bamboccioni o Globetrotter, in quale categoria vi vedete tra un po' di anni? Tommaso? Io spero Globetrotter. Globetrotter. Sassa, Globetrotter. E Luca? Troppo più affascinante Globetrotter. Nessuno vuole fare bamboccione? No, no. Anche perché io personalmente non vedo l'ora di cavarmi dai piedi i miei genitori, e quindi non ci penserei neanche a 18 anni rimanere alle loro regole. Che bello, state anche un po' andando contro tanti luoghi comuni, state dimostrando quanto siano falsi. Chi di voi pensa di andare e continuare gli studi all'università? Francesca, tu? Io sì, sicuro. Nina? Io per forza, perché uscendo da un liceo comunque. Tommaso? Lo stesso per me, sì. Sassa? Avendo fatto la cattiva scelta di andare ad un liceo, per forza dovrò andare all'università. Luca? E io, avendo fatto la giusta scelta per me di andare al liceo, sono contento di dover continuare i miei studi. E cosa studiereste, Francesca? Io diritto. Nina? Io probabilmente qualcosa che riguarda la moda. Tommaso? È un mondo molto oscuro, però verso ingegneria aerospaziale, queste cose astruse. Sassa? Comunicazione. Luca? O lettere moderne o comunicazione anch'io. Dove studiare all'università? Vi state già guardando intorno? Studiereste in Italia? Studiereste all'estero? C'è già Francesca prenotata, prego. Io studierei in Italia, perché comunque a Bologna ci sono delle ottime università. Nina? Io probabilmente in Italia, forse sì. Tommaso? Per me sarebbe bellissimo andare all'estero, anche a conoscere altre realtà come ho già fatto, però ad esempio andrei a Bologna all'università, perché a parte che ci sono i miei amici, però è molto bello. Vediamo. Sassa? No, estero, perché penso che ci siano più opportunità, e poi ti fai un bagaglio di cultura e di usanze in più rispetto a che rimanere in Italia. E Luca? No, per me, per quanto riguarda la scuola, io sarei anche contento di finirla in Italia, nel senso che per me funziona la scuola italiana, per quello che ho visto, quindi non ho niente da recriminare. Il lavoro, questo punto di domanda che si staglia nel futuro. Come guardate al lavoro, Francesca? Oddio, il lavoro è una domanda diversa da quelle che ti fanno di solito. Il lavoro io lo vedo un po' come un obbligo, perché ultimamente in Italia, non so, se non vai a lavorare, se ti senti, ad esempio, che lavoro fai? Io sono disoccupato, la gente ti guarda quasi male. Nina? Io sinceramente non so che cosa aspettarmi dal lavoro, e non so neanche che cosa farò da grande. Non ho molte idee, sinceramente. Tommaso? Io sul lavoro come è non ho la più pallida idea, però del lavoro che mi aspetto dal futuro è un gruppo di persone che fa un brainstorming continuo e si confronta per trovare idee sempre più nuove. Tra l'altro tu le idee ce le hai abbastanza chiare su cosa vorrei fare, già ce l'hai detto, Sassa. A me il lavoro fa paura, perché ho paura di dovermi ritrovare un giorno a fare un lavoro che non mi piace, essere costretta, pur di avere, non so, uno stipendio da portare a casa, a fare un lavoro che non è, non so, nella mia indole, non è nella mia natura. Quindi a me fa paura. Infatti devi lottare per fare quello che tu vuoi fare, che ti senti, sì, portata di fare. Luca? A me il lavoro affascina tantissimo, cioè l'idea di poter dipendere da me stesso è qualcosa per me di grande, e non vedo l'ora comunque di, godendomi questi anni, però di poter arrivare a una realizzazione mia personale. Allora ragazzi, qui abbiamo un problema, perché l'Istat dice che l'84% delle persone in Italia si rivolge a parenti, amici e conoscenti per trovare lavoro. Prima di tutto, è giusto, e non sarebbe meglio vivere in una società dove non conta chi conosci, ma cosa sai fare o cosa saresti in grado di fare? Francesca. Da quello che ho capito, mia mamma ha fatto degli studi da infermiera, e non lo è diventata perché i suoi genitori facevano il medico. Un po' di tempo fa chi faceva il medico automaticamente il figlio faceva il medico, e così trovavano, tutta quella famiglia trovava il lavoro. Secondo me no, perché alla fine se vuoi trovare un lavoro devi imparare a essere indipendente. Nina. Secondo me non è giusto, perché appunto per lo stesso discorso di Francesca, so che molti genitori condizionano la scelta per esempio della scuola dei figli in base a cosa fanno loro e qual è il loro mestiere. Secondo me non è assolutamente giusto. Tommaso. Mia mamma fa la maestra, io non farei né il maestro né tantomeno il professore mai. Di sicuro appunto all'estero e con tante altre persone che non conosco, di sicuro non parenti. Con Sassa approfondiamo un po' anche la domanda, nel senso anche non è tanto solo il condizionamento, ma anche forse l'accomodamento di dire beh, mi spianano la strada, allora faccio quello. Sassa. Secondo me non è per niente giusto, però ti riempiono talmente tanto la testa che non c'è lavoro, che tu non lo potrai mai trovare, che per forza ti aggrappi, non so, ad amici, a parenti. In realtà secondo me sarebbe bello che qualsiasi persona potesse fare il lavoro che vuole fare, non tanto perché conosce, non so, qualcuno di importante oppure figlio di, ma perché ha le capacità per farlo. Luca. E per me la risposta è già nella domanda. Io ho sempre in mente le frasi di mio padre che mi dice: tu fai tutto quello che vuoi nella vita, però non fare quello che ho fatto io. Prendi hai un padre molto intelligente. E fai le cose come piacciono a te. Quindi. Altro punto interessante, anche perché voi siete una generazione molto tecnologica. Se vi dico la parola startup, cosa vi viene in mente, Francesca? Creatività. Nina. Beh, io mi viene in mente un po' una specie di definizione, però cioè è un po'. Sembra un po' agitata. Tommaso. Per me è un gruppo di persone strampalate, una più strampalata dell'altra, in vari ambiti, che si confrontano continuamente. Sassa. A me viene in mente la parola ragazzi, cioè startup la leggo sempre a ragazzi che vogliono fare qualcosa di innovativo, qualcosa di nuovo, che si mettono in gioco per farlo. Luca. Credo che sia iniziare una sorta di business, una sorta di impresa da idee nuove tramite tecnologie avanzate che si stanno sviluppando in questi anni. Domanda flash: l'Italia è un paese innovativo, Tommaso? Forse. Noemi? In parte. Luca? No. Tanti giovani di pochi anni più grandi rispetto a voi stanno avviando le proprie startup. Torniamo al punto di partenza. Vi ci vedete a fare gli imprenditori, Francesca? La creatività ce l'abbiamo sicuro, però finché non ci sono i fondi non si può fare niente. È toccato il punto centrale, perché infatti il problema di tanti giovani che fanno startup è che manca il venture capital, mancano i fondi per cominciare. Nina. Io sì, forse, perché mi piace comunque sfruttare la mia fantasia per creare qualcosa di concreto. Tommaso. Non mi immaginerò mai in giacca e cravatta a guidare un gruppo di persone. Beh, non è necessaria la giacca e la cravatta, soprattutto se sei startup. Non fa per me, secondo me, no. Sassa. Che barba stare dietro una scrivania 8 ore al giorno, no, però assolutamente. Attenzione, gli startup e gli imprenditori non necessariamente stanno dietro la scrivania, anzi, è un modo molto innovativo, diverso, no, di fare. No, però come diceva ad esempio Francesca, mancano le risorse, cioè vengono magari date risorse ad altro e non a noi ragazzi che siamo comunque il futuro, che questi idee innovative servono. Luca. Io per ora mi sto concentrando davvero sugli studi, quindi non riesco a immaginarmi ancora un futuro. E vi spiegano cosa serve per fare gli imprenditori? Qualcuno ve l'ha mai spiegato, Tommaso? Non ne ho la più pallida idea. Sassa. No, assolutamente. E Luca? Mi aggrego. Questo è grave, non è colpa vostra, però Sassa. No, più che altro la scuola si preoccupa più che altro del voto che prendi e non di formarti. E questo secondo me è il grande problema, cioè la scuola ti dovrebbe dare gli strumenti per diventare quello che vuoi diventare, però questo non lo spiega, è molto più incentrata al voto che prendi, appunto. Si inserisce Francesca. Io non so neanche che cosa vuol dire. Viva la sincerità. Andare a lavorare all'estero, soluzione problemi o opportunità, Tommaso? Opportunità di sicuro. Entrambe. Sassa ha detto entrambe, Luca? Essendo una per me anche l'altra. Allora, nuovo giro di tavolo. Chi di voi pensa di andare all'estero a lavorare e perché, Francesca? Io andrò all'estero, ma sinceramente non so il perché. Mi sembra che ormai tutte le persone dicano che si vive meglio all'estero, allora mi sento... come dire, all'estero si vive meglio, Francesca, tu devi andare, è un'opportunità. Cioè. E allora chiedo a Nina, l'erba del vicino è sempre più verde? Non lo so, io ci andrei a lavorare all'estero per provare, per poi poter tornare e dire magari sì, si vive, cioè, è tutto più bello all'estero, tutto meglio rispetto all'Italia, però non lo so. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale di fine anno vi facciamo riascoltare alcune delle migliori trasmissioni andate in onda nel corso del 2016. Dopo le storie e i sogni dei ragazzi di Radio Immaginaria, torniamo a parlare di giovani espatriati. Già, perché questo è stato anche l'anno della Brexit e su questo tema abbiamo fatto un focus speciale a settembre col progetto Italian Kingdom. Riprendiamo allora l'ascolto. Nome: Eleonora. Alfio Alessandro. Cognome: Ossola. Chiarenza. Età: 31. 27. Città di origine: Venegono Inferiore. Catania. Studi: laureata in lingue e letterature straniere, triennale in scienze naturali, magistrale in biodiversità ed evoluzione. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004. Settembre 2015. Per andare dove? New York City. Londra. Perché? Per fare danza. Iniziare il dottorato in paleontologia. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono International Sales Manager per una casa editrice. Dottorando al Dipartimento di Scienze della Terra all'Imperial College. Dove? Londra. Tornerai? Mai dire mai, ma al momento direi mai. Bella domanda, mi piacerebbe, ma non credo. Una domanda per entrambi per iniziare. Se vi dico Brexit, a cosa pensate? Quali conseguenze vi vedete per il vostro futuro oltre Manica? Eleonora. La prima cosa che penso, in realtà mi viene mal di pancia, credo che ci sia molta confusione, la classe politica qui non sa bene dove andare. Non credo ci saranno, almeno al momento, delle grandi conseguenze, per cui credo che rimarremo qui finché c'è lavoro e finché si sta bene. Alessandro? Come ha detto Eleonora, c'è da dire che a differenza dell'Italia, qui molti dei fondi nazionali sono destinati alla ricerca, molti fondi sono statali, però quello che proviene dalla Comunità Europea, dall'Unione Europea, è un po' un surplus, un qualcosa in più che fa sempre comodo, quindi ci sarà comunque una scarsità. Tra poco torniamo sul tema, prima però le vostre storie, cominciando da Eleonora, un passato da danzatrice classica, con studi tra Milano e New York, poi, come purtroppo a volte succede, un infortunio ti obbliga a cambiare strada, rientrata in Italia opti per studiare lingue e letterature straniere all'università. Perché? Perché credo sia comunque parte di un percorso abbastanza naturale, la comunicazione, la danza, e poi ho una grandissima passione per le lingue, è stato, diciamo, scegliere abbastanza naturalmente questo tipo di percorso. Alessandro, la tua strada è radicalmente diversa, dopo la maturità scientifica decidi di iscriverti a Scienze Naturali a Catania, alla base di questa scelta una innata passione per la paleontologia. Cosa ti porta su questa strada? Ho avuto sempre la passione per il mondo preistorico, per le scienze naturali in generale. Chiedo subito ad Eleonora un giudizio sulla formazione universitaria in Italia, Eleonora? Io ho avuto un'esperienza molto positiva, credo che in generale l'istruzione in Italia sia eccellente. Il problema invece credo che sia il post università e quindi poi trovare lavoro. Tra poco ci arriviamo. Alessandro, tu nell'università italiana hai compiuto un percorso più articolato, soprattutto hai cercato di dare un approccio molto proattivo internazionale spostandoti in Spagna, negli Stati Uniti. Hai trovato un mondo accademico tricolore pronto a sostenerti in queste iniziative? Beh, bisogna vedere cosa intende per sostegno. Se parla di sostegno economico, quello concreto che ti può spingere a poter fare certe scelte, prendere certe strade, quello di sicuro no. Pacche sulle spalle tante, gradite, ma... E a un certo punto le vostre strade parallele si dividono, Eleonora comincia a lavorare nel mondo dei media e dell'editoria come traduttrice. Inizi da Milano, Milano è una bella città, la situazione lavorativa italiana però, dici, era deprimente e mi pesava tanto, parole che abbiamo letto e sentito centinaia di volte. Cosa significa questo nel concreto e nel vissuto di una giovane neolaureata? Sapere che non puoi crescere più di tanto, che non puoi aspettarti più di tanto, che anche il tuo talento non viene riconosciuto. Il problema credo sia proprio che arrivi dall'alto, quindi da parte dello Stato probabilmente non c'è la volontà di riconoscere i propri talenti e poi dopo ci si chiede come mai bisogna lasciare il proprio paese. Ero consapevole che ero già arrivata a un punto fermo e avevo 25 anni e la cosa chiaramente mi pesava molto. Alessandro, invece, dopo la laurea in scienze naturali con tesi in paleontologia dei vertebrati, ti trasferisci a Bologna per il biennio magistrale con studi in biodiversità dell'evoluzione. Però tu stesso, insomma, Alessandro, definisci la paleontologia la cenerentola tra le scienze in Italia. Perché, ti chiedo, in altri paesi non è così? Beh, in realtà sarebbe falso dire che non è esattamente così. Di sicuro è un po' una scienza di nicchia anche all'estero. Il fatto che qui si cura maggiormente. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno. Le vostre sono strade diverse, ma la destinazione è identica, Londra per entrambi. Eleonora ci arriva dopo aver venduto la sua adorata Fiat 600, attratta dal fascino verso la cultura britannica. È stata dura, difficile ricominciare da capo a 27 anni, ricordi come sono stati allora gli inizi? È stata sì molto dura, non solo per la 600, ma perché ho dovuto lasciare quindi un lavoro, avevo una certa posizione per arrivare a Londra e rimboccarmi le maniche. Ho lavato pavimenti per diversi mesi, ho vissuto con gente appunto che non conoscevo e ti ritrovavi catapultata a 27 anni. In una città che ancora non conosci non è come partire a 18, però sono chiaramente molto felice. Più tradizionale la strada intrapresa da Alessandro, che punta tutto sul dottorato di ricerca e invii candidature a università italiane e straniere, e chi guarda caso ti risponde? Beh sì, l'Imperial College, in particolare il Dipartimento di Scienze della Terra, mi ha subito chiamato, mi ha poi chiesto una interview Skype, un colloquio Skype e telefonico, e poi mi ha avviato alle varie pratiche che mi hanno portato a partecipare al concorso. Eleonora, è stata dura, l'hai detto, molto dura, però la testardaggine paga. 3 anni fa arriva il colloquio che ti cambia la vita. Dove e per quale posizione? Dunque, mi hanno chiamato per una casa editrice dove sono attualmente, si chiama Scholastic, per coprire una maternità. Poi da lì hanno deciso di tenermi e poi in 3 anni sono riuscita a diventare manager, il che insomma dimostra che quando ci sono le capacità e la volontà, questa città veramente sa offrire delle grandi opportunità. Alessandro, com'è stato il percorso di selezione all'Imperial College di Londra? Per quale posizione poi sei stato preso? Io partecipato a un concorso a titoli, da lì sono stato selezionato per un colloquio di presenza su Skype, sono andato di presenza a fare questo colloquio e da lì poi ho saputo una settimana dopo di essere stato assunto come dottorando di ricerca. L'Inghilterra mi ha dato la possibilità di crescere, riassumi in modo molto efficace Eleonora. L'importanza del senso dell'achievement, del conseguire qualcosa, viene spesso sottovalutato in Italia, aggiungi. Cosa intendi dire? Non ci sono le possibilità, è tutto abbastanza difficile, asettico, non si respira il senso della difficoltà che qui ti permette di raggiungere a un certo punto uno step avanti. Il fatto che si cresce, che ti dimostra te stesso, oltre che la persona a te attorno, che si può fare, è già metà dell'opera. In Italia non esiste neanche questo primo passo, non sei proprio preso in considerazione. Questo è grave. Alessandro, tu sei molto deluso da come la ricerca continua ad essere considerata in Italia, perché tu con i tuoi ex colleghi sei ancora in contatto e ascolti le loro storie. Cosa non va concretamente? Beh, una bella domanda. Innanzitutto c'è sicuramente una scarsità di fondi che viene riservata specialmente alla ricerca di base e c'è un divario nella comunicazione dei risultati raggiunti magari dai ricercatori di base verso la popolazione che non capisce spesso. Vedete l'Italia attrattiva nel caso un domani la Gran Bretagna smettesse di essere una terra delle opportunità? In una battuta, Eleonora? No, assolutamente no, penso che andrei in un altro posto, forse Canada. Alessandro? Al momento no, appunto anch'io immaginerei un futuro oltreoceano. Alessandro, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Magari se ci fosse maggior controllo nei dipartimenti dove vengono dati quei pochi soldi che vengono, diciamo, distribuiti dagli amministratori per fare ricerca, magari si potrebbe fare già un passo in avanti. E ci raggiungono ora in linea Silvia Favasuli, giornalista autrice del libro Italian Kingdom. Buon pomeriggio Silvia. Buon pomeriggio. E Stefano Broli, CEO di Italian Kingdom. Buon pomeriggio Stefano. Buon pomeriggio. Il libro è molto corposo, Silvia. In sintesi cosa racconti? Mi è stato chiesto dalla community di italiani londinesi, Italian Kingdom, di scrivere un racconto che facesse da trama una raccolta di storie di italiani a Londra, e io ho scelto di raccontare la storia più taciuta e meno nota, quella che però unisce tutte le storie, che è il vissuto interiore e il percorso emotivo e psicologico che accomuna tutti quelli che lasciano l'Italia a un certo punto e provano a ricostruirsi una vita altrove. Stefano, invece, più in generale, cos'è Italian Kingdom? Contenitore di storie, è qualcosa che va a coprire con un ventaglio appunto di esperienze, quello che può essere un racconto generazionale, tutto un insieme di vissuti che se ne sono andati dall'Italia. Silvia, sei a Londra da 2 anni, ci sei andata con l'obiettivo di raccontare la nuova immigrazione italiana, col tempo hai scoperto anche cose interessanti e meno note, quali ad esempio? Ma innanzitutto ho scoperto una cosa notissima, è che appunto i giovani italiani trovano in Inghilterra le condizioni per esprimere il loro talento e le loro potenzialità. Poi ho scoperto fenomeni che non mi aspettavo, come per esempio la voglia di fare politica e di partecipazione che nasce nel momento in cui si trova stabilità economica e professionale. Ho scoperto che tutti gli expat italiani in realtà tengono sempre gli occhi puntati sull'Italia in attesa di un cenno che permetta loro almeno di considerare l'idea di tornare, perché c'è sempre questa nostalgia per il proprio paese natale. E poi ho scoperto un fenomeno molto interessante che ci permette di essere anche positivi, che è quello che io chiamo delle imprese ponte, cioè ci sono italiani che cercano di ricostruire un contatto con la terra natale costruendo delle imprese, delle attività che sono in realtà un ponte tra l'Italia e il paese in cui hanno scelto di ricostruire la loro vita. Grazie a Silvia per questa iniezione di positività. Ricordiamo che a Londra si stimano 300.000 italiani, non sono pochi. La Brexit avrà un impatto su di loro e su chi sta pensando anche a un espatrio. Allora chiedo a entrambi: quali primi effetti avete cominciato a notare e soprattutto consigliereste ora un espatrio in Gran Bretagna? Silvia. Ma allora c'è un effetto psicologico, un impatto psicologico fortissimo che forse nessuno si aspettava effettivamente di provare. Ci si sente più stranieri e meno partecipi, e questo ha delle conseguenze palpabili. E poi ci sarà sicuramente un effetto economico che deve essere preso in considerazione. Se sarà recessione, significa che l'Inghilterra, che è in questo momento la prima valvola di sfogo per i giovani italiani, non sarà più tale, e questo fa capire che il governo italiano deve affrontare la questione giovani il più presto possibile, perché altrimenti sarà ingestibile. Stefano? Il settore dell'alta finanza è quello che si è svegliato un peggio l'indomani del voto del referendum, ma in generale un po' tutti i ragazzi, per quello che le storie mi hanno raccontato, ma in generale anche con le telefonate ricevute dagli amici, insomma, svegliarsi la mattina e sapere che qualcuno pensa che dovrà rifare la valigia e partire immediatamente non è stato proprio il pensiero più bello. Bocca al lupo a tutti e due, e anche alla nostra vastissima comunità oltremanica. Grazie a Silvia Favasuli e Stefano Broli, e abbiamo la domanda di rito per Eleonora. Quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Direi sì, coraggioso ma anche pragmatico, quindi parti con un piano, con delle idee molto chiare, con degli obiettivi. Non avere paura di ricominciare, assolutamente, ma devi essere pronto a fare fatica e soprattutto avere tanta ambizione, ma capace di adattarti al nuovo posto. Dove andrai non sarà come l'Italia, però prometto che sarà un'esperienza meravigliosa. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn col gruppo La Fuga dei Talenti, e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, idee, proposte, riflessioni e, perché no, denunce. Per mettervi in contatto con noi è davvero semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. La novità a partire dal 2017 è che cerchiamo non solamente storie di under 40 espatriati, ma anche di under 40 controesodati nella penisola dopo diversi anni all'estero, di under 40 stranieri al lavoro in Italia e di giovani studenti delle scuole superiori o universitari attualmente oltre confine. Se vi riconoscete in una di queste categorie, beh, Giovani Talenti è la vostra trasmissione, e per questo vi invitiamo a candidarvi scrivendo a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon 2017 da Sergio Nava.